24, la storia. Era una delle tipiche giornate di quel periodo. Milano era invasa dallo smog. I nostri clienti, che erano quasi tutti agricoltori della Bassa, affluivano in Piazza Fontana. Quel giorno alle 16.30 avevo appena finito di spezzare un contratto quando fui chiamato da un collega, dissi ai due anziani agricoltori: aspettatemi qui, poi vengo giù, andiamo a prendere un caffè insieme. E quando arrivai in questa saletta mi appoggiai con le spalle al vetro. Io ho sentito un gran botto, un boato tremendo, e poi la sensazione del buio. Il contraccolpo mi ha fatto finire lungo disteso dalla parte opposta della saletta. Mi sono rialzato e come un automa mi sono diretto verso il salone. Vidi una cosa tremenda. C'erano ancora pezzi di corpi martoriati, c'erano tanti feriti, c'erano ancora delle fiammelle di fuoco. Ho visto un cliente che conoscevo che mi si è aggrappato ai pantaloni e che strisciava per terra in un lago di sangue. Aveva una gamba spezzata, mi sono messo a piangere, volevo andare via, questo mi teneva per le braccia e mi ha detto: no, stai qui, aiutami. Sono le parole di Fortunato Zinni, uno dei sopravvissuti alla strage di Piazza Fontana, che oggi vi raccontiamo qui a Mix24. È venerdì 12 dicembre del 69. Alle 16.37 una bomba collocata nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura provoca 17 morti e oltre 80 feriti. È la madre di tutte le stragi. Contemporaneamente, in quello stesso pomeriggio di dicembre, altre tre bombe scoppiano a Roma e un'altra viene ritrovata a Milano inesplosa. È l'inizio degli anni di piombo in Italia. Milano, 15 dicembre 1969. In una piazza Duomo gremita si svolgono i funerali delle vittime. Il ricordo di alcuni familiari, Francesca Dendena e Carlo Arnoldi, e ancora Fortunato Zinni. Sembrava notte durante tutto il giorno, cioè sembrava che anche il cielo si chiudesse su questa disgrazia. La folla veramente fu una cosa impressionante, c'era una marea umana, la gente in silenzio, nessuno che parlava, tutti raccolti in preghiera a chiedersi perché, cosa era successo. Queste persone dicevano: no, di qui non passate. E poi ho visto dentro la chiesa i volti impietriti dei maggiori esponenti del governo. Hanno promesso tutti che sarebbe stata fatta giustizia. E noi, io in particolare, gli ho creduto. E invece, quella per la strage di Piazza Fontana è una vicenda giudiziaria che dopo 35 anni di processi si conclude senza condanne e senza colpevoli. Negli anni, infatti, sono stati assolti tutti gli imputati, dagli anarchici ai neofascisti, fino agli agenti dei servizi segreti. Ma è anche un'indagine che tra depistaggi e segreti di Stato parte da subito con il piede sbagliato. A tre giorni dalla strage, il primo sospettato è l'anarchico Pino Pinelli, che però muore cadendo misteriosamente da una finestra durante un interrogatorio in questura. Poi il secondo sospettato è l'anarchico Pietro Valpreda, ce ne parla il suo avvocato Guido Calvi. Le indagini furono immediatamente indirizzate verso il mondo degli anarchici. Un uomo è stato denunciato per gli attentati di Milano e Roma. Si chiama Pietro Valpreda. La denuncia è stata fatta dopo un confronto diretto avvenuto al Palazzo di Giustizia di Roma tra lo stesso indiziato e un tassista milanese. Il tassista testimone, si chiama Cornelio Rolandi e ha 47 anni, ha raccontato di avere accompagnato venerdì pomeriggio alla Banca Nazionale dell'Agricoltura un giovane che aveva una valigetta nera. Il tassista testimone Cornelio Rolandi, che racconta di aver accompagnato un giovane con una valigetta nera alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. A Rolandi la polizia chiede di riconoscere Pietro Valpreda in un confronto, ma l'avvocato di Valpreda, Guido Calvi, ci racconta com'è andata veramente. Prima che inizi il confronto, chiese se erano, gli avevano mostrato fotografie, se aveva visto Valpreda prima, eccetera. E Rolandi negò. Io sapevo invece che c'era questa cosa, ho insistito. Per tre volte alla fine mi arrabbiai, dissi, no, lei deve dirlo altrimenti. E Rolandi a questo punto si girò verso di me e disse, sì, è vero, mi hanno mostrato una fotografia e mi hanno detto che era quella che dovevo riconoscere. Poi ci fu il confronto, lo indicò, Valpreda disse, ma chi io? Sì, insomma. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. E Valpreda da quel momento era il mostro. Per tutti il mostro è Pietro Valpreda, 37 anni, ballerino, membro del circolo anarchico romano 22 marzo. Valpreda viene rinviato a giudizio per strage insieme a Roberto Gargamelli. Mario Merlino e altri membri del gruppo anarchico del 22 marzo saranno tutti assolti in via definitiva. Ma il gruppo anarchico di Valpreda è un gruppo strano, particolare. Infatti, tra i membri c'è anche un ex neofascista, Mario Merlino, che spiega la natura e gli obiettivi del gruppo 22 marzo. La gran parte di noi aveva l'idea di rovesciare questo sistema e per poterlo fare sentiva che doveva collegarsi in qualche modo anche con i giovani dell'estrema sinistra. Non era infiltrazione. No, era un tentativo di mantenere i contatti. D'altra parte, essere all'interno di un gruppo come il 22 marzo, così minimale, può giustificare solo una seconda accusa che mi è stata fatta, cioè spingerli a compiere gli attentati o far scaricare su di loro gli attentati. E poi c'erano altri due. Uno, Ippoliti, era un poliziotto che si era infiltrato. L'altro, Serpieri, che era un uomo dei servizi segreti. Dunque, in un piccolo gruppo anarchico del 68 si annidano, oltre che a un ex neofascista, anche infiltrati della polizia e presunti agenti dei servizi segreti. Intanto, mentre l'opinione pubblica si divide sull'innocenza di Valpreda e sugli altri anarchici, inizia a montare la polemica sulla strage di Piazza Fontana. Dall'inchiesta arriva un primo clamoroso colpo di scena. Ne parliamo tra poco dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Eccoci di nuovo a Mix 24, dove stiamo raccontando la storia della strage di Piazza Fontana. Colpevoli per tutti, fin da subito, Pietro Valpreda e il suo gruppo anarchico, dove si annidano anche i fascisti e infiltrati della polizia. Ma pochi giorni dopo la strage arriva un colpo di scena. Treviso. Pochi giorni dopo la strage, Guido Lorenzon, professore di liceo, si presenta in procura, dichiarando di aver ricevuto delle confidenze sulla strage da parte del suo amico d'infanzia Giovanni Ventura, 25 anni, di Treviso. Secondo Lorenzon, Ventura farebbe parte di un'organizzazione terroristica di estrema destra, responsabile degli attentati del 12 dicembre. A capo dell'organizzazione ci sarebbe un giovane avvocato di 28 anni di Padova, Franco Freda. A raccontarci le indagini sulla pista nera è il magistrato Gerardo D'Ambrosio. All'inizio non furono trovati riscontri a queste accuse che Guido Lorenzon lanciava nei confronti di Ventura, di Freda e di altri, ma poi dopo a un certo punto crollò una soffitta in cui erano custodite queste armi. Da quel momento i riscontri e le parole di Lorenzon si susseguono. Gli inquirenti trovano i timer usati per la strage, il negozio dove sono state acquistate le borse che contenevano gli ordigni. Individua addirittura una riunione in cui si sarebbe decisa la strategia. Per i magistrati sono prove sufficienti a determinare il coinvolgimento dei neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura nella strage. Il 10 dicembre 69, presso la cartoleria della valigeria Duomo, qualcuno avrebbe acquistato delle borse. Qualcuno avrebbe acquistato quattro borse. Ci può dire qualche cosa? Lei? Non so nulla. E se entrambi continuano a negare ogni coinvolgimento in Piazza Fontana, a un certo punto però Ventura, a sorpresa, confessa la sua partecipazione ad altri attentati precedenti avvenuti quell'anno.

che le autorità ne fossero consapevoli? Certamente sì. L'utilizzo di questo che ne fosse fatto era nell'ipotesi preventivabile? Sicuramente sì. Che ne sia stato fatto uso? Beh, ben poco direi, in rapporto alla quantità. Se avessimo dovuto far brillare tutto quello che c'era di materiale, probabilmente sarebbe stato un fuoco pirotecnico che durava gli anni. Ho parlato di possibilità di elementi di servizi informativi americani, tra i quali gli elementi di estrema destra non mancavano. È una costellazione quella informativa militare americana. Sono svariati servizi e svariati livelli di servizio, come ci sono in qualunque altro paese. Più di così non dico e non posso dire. Di più non dice e non può dire Gianadelio Maletti, un'ambiguità che copre forse verità terribili sul coinvolgimento di apparati dello Stato nella strategia della tensione e nelle bombe di Piazza Fontana. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Radio 24 con l'interminabile e inquietante inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Il 7 settembre del 2000, sentito dai magistrati di Milano, Paolo Emilio Taviani, che nel dicembre del 69 era vicepresidente del Consiglio, fa una clamorosa rivelazione. Da Fiumicino stava per partire la sera del 12 dicembre 1969 l'avvocato Fusco, defunto negli anni 80. Aveva frequenti legami con i dirigenti del SID. Suo compito era recare il controordine sugli attentati previsti a Milano. A Fiumicino seppe dalla radio che una bomba era scoppiata a Milano. Rientrò a Roma. Telefonò subito alla figlia Anna Maria per dirle che si sarebbe tenuto quel gravissimo cruccio per tutta la vita. Cosa significa ce lo spiegano il magistrato Guido Salvini, ma anche Roberto Cavallaro e infine Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana. Ciò vuol dire che lo Stato, ai suoi massimi livelli, cioè da Roma, sapeva benissimo cosa stava avvenendo e chi si stava muovendo quel giorno. Direi che questa testimonianza dei Taviani ci dà la conferma che quel giorno fu anche strage di Stato. Purtroppo bisogna essere cinici. La politica è cinica, lo Stato è cinico. In quell'epoca non solo era cinico, ma era anche barbaro. E lo ha dimostrato in molti versi. Il Paese ha diritto di sapere che cosa è successo in quel periodo particolare della nostra storia, quali sono i rischi che il nostro Paese ha corso, qual è il significato vero di quel muro umano che il 15 dicembre del 69 si eresse contro il tentativo di ricacciare indietro il Paese. Una strage, perché? Perché questa strage? Marco Tullio Giordana, regista di successo, nel 2011 ha realizzato il film Il romanzo di una strage, basato sulla storia della strage di Piazza Fontana. Ecco, come mai hai deciso di fare un film proprio su Piazza Fontana, visto che è un mistero praticamente insoluto? Prima di tutto perché ricordo di aver visto un po' di tempo prima di fare il film una inchiesta fatta alla televisione in cui chiedevano a dei ragazzi: Cosa significa per voi Piazza Fontana? Che cos'è? Molti non ne sapevano nulla. È vero. Alcuni, pochissimi, invece la associavano a un fatto di sangue, però lo attribuivano alle Brigate Rosse. Mm. Allora le Brigate Rosse ne hanno fatte di tutti i colori. Ma quella no. No, quella no. Anzi, molti pensano che la strage di Piazza Fontana, che inaugura la strategia della tensione, sia stata anche all'origine, come una sorta di perversa autodifesa del fenomeno poi del terrorismo di sinistra. Perché sappiamo che non è vero. Ma sappiamo che ha tante origini. Sì, appunto. Certo, io che ero ragazzo a quel tempo, addirittura sono stato quasi un testimone oculare, perché sono arrivato sul luogo della bomba pochi minuti dopo che era scoppiata. Ma per caso oppure perché sei stato attratto dall'esplosione? No, no, beh, per caso, assolutamente. Io vivevo a Milano all'epoca, stavo andando in università e quindi sono... E quindi un'esigenza quasi di riempire un vuoto storico in qualche modo? In parte anche di liberarsi di una sorta di mostro. Sguardo, sì, di mostro che uno si porta dentro e poi lo mette in forma, se così si può dire, certo. E lo estrae, perché cose che da giovani sono sopportabili, poi dopo nel tempo diventano veramente faticose. Sì, tanto che mi spiego anche perché uno le vuole rimuovere, certo, però certo. Che un individuo le voglia rimuovere è una cosa, che un paese le voglia rimuovere invece è molto più grave. È un po', è anche perché poi in realtà non si possono rimuovere, emergono poi da qualche parte in modo misterioso, quindi è meglio attraversarle. Ma qual è stata la difficoltà maggiore nel fare un film come questo? Beh, intanto liberarsi dei propri pregiudizi. Certo. Secondo, riesaminare tutto il materiale che poi nel frattempo da... in questi 44-45. Sì, anche noi, la storia siamo noi, abbiamo fatto una lunga inchiesta. Sì, sì, lo so, infatti sì, è stata anche, come si dice in linguaggio poliziesco, acquisita in atto. Sì. C'erano, sai, certo. Soprattutto le testimonianze a caldo, le interviste, sì. Quelle sono cose preziose, sì, in questo sì. La televisione è fantastica, certo. Perché uno capisce perfino quando il testimone mente. La difficoltà maggiore... E appunto mettere sul tavolo tutta questa immensa documentazione, cercare di trovare un filo, anche perché molte di queste notizie, testimonianze sono dei depistaggi, purtroppo questo è successo in Piazza Fontana. Naturalmente, vero. Addirittura le istituzioni hanno depistato. Grazie, auguri per il tuo lavoro, grazie mille, ciao. Grazie anche a voi. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.